Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Una politica, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, in grande subbuglio, bisogna dire, la nostra, anche se insomma diciamo è un po' un leitmotiv questo, una linea abbastanza coerente. E da una parte sulla legge di stabilità, adesso anche l'Unione Europea sembra preoccupata di questa, come possiamo chiamarlo, si dice sempre, no? Ma vuol dire l'assalto alle diligenze, cioè tutti i gruppi parlamentari, i partiti che cercano di fare dei cambiamenti, degli emendamenti, ma più maligni dicono più nel proprio interesse o interessi di lobby che non nell'interesse del paese. Dall'altra parte ci sono i due partiti che si trovano appunto piuttosto in contrapposizione nel fare queste modifiche alla legge di stabilità, perché sono due partiti delle larghe intese. Di solito un governo, almeno in Italia, dovrebbe essere composto da due partiti così opposti, che col PD che va verso il congresso e quindi con le esternazioni dei candidati in questi giorni, e dall'altra forse diciamo una situazione ben più tesa, il PDL fino a poco fa, e forse dovrebbe essere ancora riuniti Berlusconi con Alfano e forse anche i ministri, perché qui sabato c'è il Consiglio Nazionale. Bisogna decidere che fine fa questo partito. A questo proposito potete fare anche i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, cioè Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Ma come sempre all'inizio vi riepilogo la giornata. Partiamo dalla legge di stabilità. È una dichiarazione di questa sera del ministro dell'economia Saccomanni, che dice l'Unione Europea è preoccupata per gli emendamenti alla manovra. E poi Berlusconi, la condanna definitiva per frode fiscale, l'avvocato Coppi, l'avvocato di Berlusconi, precisa la richiesta di grazia è tramontata, e questa sera appunto l'ex presidente del Consiglio torna a vedere Alfano. All'Italia si va verso una proroga del termine per l'aumento di capitale. E poi la Spagna, con nessun colpevole per la catastrofe ambientale della petroliera Prestige nel 2002, tutti assolti. E poi il presidente del Consiglio Letta, oggi è la sua prima visita al CONI, ha annunciato una legge sugli stadi e la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi 2024 e ha aggiunto tolleranza zero su Salernitana Nocerino. E quindi, come vi dicevo, il ministro Saccomanni ha fatto questa dichiarazione in serata, ha detto che l'Unione Europea è preoccupata per tutti questi emendamenti, oltre 3.000 che si stanno muovendo verso la manovra. Allora sentiamo la sua dichiarazione. Siamo preoccupati per l'elevato numero di emendamenti, ho spiegato che questo diciamo, è una parte abbastanza normale del processo e che comunque il governo è fermamente impegnato a mantenere i saldi di bilancio pur essendo aperto a modifiche della composizione di singole voci del bilancio nel rispetto della compatibilità generale. E adesso passiamo alla politica in senso stretto, a Berlusconi, al PDL. Non ci sarà nessuna richiesta di grazia, nessuna richiesta sarà presentata quindi per Silvio Berlusconi, lo si è appreso in serata, mentre i riflettori restano puntati sul PDL e sulle divisioni tra i cosiddetti lealisti e governativi. Il Consiglio nazionale resta confermato per questo sabato. Un incontro in serata per evitare ancora una volta la scissione del PDL. Silvio Berlusconi riceverà a Palazzo Grazioli Angelino Alfano in vista del Consiglio nazionale di sabato. Il vice premier è convinto che il cavaliere non dividerà il partito e non farà cadere il governo. Una risposta comunque Angelino Alfano la dà a Raffaele Fitto, che l'aveva accusato di voler fare la festa a Silvio Berlusconi, così il vice premier a Mattino 5. Non è interesse di alcuno per il rapporto che ci lega al presidente di Berlusconi di andare lì a rovinare la festa, e per cui noi confidiamo davvero che sia un giorno di festa per tutti, e cioè che ci siano le condizioni per andare lì tutti insieme a fare una scelta unitaria e condivisa attorno al presidente Berlusconi. Da parte delle colombe Fabrizio Cicchitto spinge per annullare il Consiglio nazionale in questo clima e rivendica di aver fatto slittare il voto per la decadenza di Silvio Berlusconi di almeno 2 mesi. Subito arriva la risposta del PD, che blinda il voto per il 27 novembre a Palazzo Madama. Intanto l'avvocato di Berlusconi Franco Coppi annuncia che l'ipotesi di richiesta di grazia Grazia è tramontata. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi chiederemo conto di questo incontro, se ne saprà qualcosa, al sindaco di Pavia, che ci sarà tra poco qui effetto notte. Passiamo dall'Italia. In primo piano c'è il Consiglio di amministrazione. Il piano di salvataggio è appeso a un filo e, come anticipato ieri dal Sole 24 Ore, sembra più probabile uno slittamento dei tempi per l'aumento di capitale. Ma anche di questo parleremo dopo e con Gianni Dragoni. Oggi però i riflettori sono stati puntati anche su Telecom, che ha subito ispezioni nella sede di Milano e di Roma per la vendita della quota di Telecom in Telecom Argentina e l'emissione di un bond da 1,3 miliardi di euro. Telecom Italia ha sottolineato però in una nota di avere sempre operato nel rispetto delle leggi. E la Procura di Milano sta intanto indagando anche su Apple per una presunta frode fiscale da circa 1 miliardo di euro. Da quanto si è saputo, la multinazionale avrebbe sottostimato l'imponibile fiscale per gli anni 2010-2011. La Commissione europea, e parliamo qui di legge di stabilità, ha deciso di avviare, e non solo di questo, ha deciso di avviare una indagine approfondita sugli squilibri macroeconomici dell'Italia e di altri 15 paesi dell'Eurozona, inclusa per la prima volta la Germania. Questo è un tema che approfondiamo dopo. E comunque proprio oggi Letta era tornato a rassicurare sulla ripresa, questo mentre il dibattito sugli emendamenti alla legge di stabilità va avanti in Commissione. Lavori non certo spediti al Senato per la legge di stabilità, da una parte le fibrillazioni nei due principali partiti della maggioranza, dall'altra l'attento vaglio della presidenza della Commissione Bilancio degli oltre 3.000 emendamenti. Sono già oltre 400 intanto le proposte di modifica bocciate, tra queste quelle a firma PD-PDL per aumentare la no tax area, esentando dall'IRPEF i redditi inferiori a 12.000 euro. Questi emendamenti sono stati giudicati inammissibili per difetto di copertura, ma questo capitolo è tutt'altro che chiuso, con il sottosegretario l'economia Baretta che però ricorda: bisogna trovare le risorse se si vuole affrontare qualsiasi tema. Altro capitolo, quello delle spiagge. Nessuno le sta vendendo, spiegano, dal Popolo della Libertà, ma si vogliono dare certezze a 30.000 imprese, assicurando tra l'altro un gettito dell'ordine di 3-5 miliardi. Sul fronte della crescita, intanto, a parlare è il Premier Letta. I dati sulla ripresa possono consentirci l'anno prossimo di avere dei risultati positivi e importanti, di invertire la tendenza e quindi di far sì che la fiducia riprenda. Ma l'ottimismo del Presidente del Consiglio non trova sponda nei sindacati. Serve una terapia shock, dice Bonanni, CISL, i consumi sono al lumicino. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di finanze, un paragone particolare. Solo 105 chilometri dividono il comune d'Italia con i cittadini più ricchi da quello più povero. Il primo è Basiglio, in provincia di Milano, dove il reddito imponibile medio tocca quota 53.589 euro. L'ultimo è Valsolda, in provincia di Como, quindi appunto a poco più di 100 chilometri e a poco più di un'ora di auto, ma lontano un abisso. L'imponibile a Valsolda, l'imponibile medio si ferma a 11.998 euro, emerge questo dai dati del Dipartimento delle Finanze. Ma spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero, cominciando dalla Spagna, dove non c'è nessun colpevole per il disastro provocato nel 2002 dalla petroliera Prestige. Non ha colpevoli il peggior disastro ambientale che l'Europa ricordi. 11 anni dopo il naufragio della petroliera Prestige al largo delle coste della Galizia, una corte spagnola ha di fatto sancito che nessuno pagherà per gli oltre 1700 chilometri di costa, dal Portogallo al sud della Francia, inondate dalla marea nera di 77.000 tonnellate di greggio riversate in mare, per quei 17.000 uccelli che tutti ricordiamo imprigionati nella marea nera, per oltre 4 miliardi di euro di danni. Non è nessun dato concreto che permetta di stabilire con sicurezza. Nessuno può sapere con certezza le cause dell'accaduto né quale avrebbe dovuto essere la risposta appropriata nella situazione di emergenza creata dalla grave avaria della Prestige, ha detto il presidente del tribunale. La superpetroliera, fabbricata in Giappone, battente bandiera delle Bahamas, di proprietà liberiana e armatore greco, con certificato di navigazione statunitense, affittata da una società svizzera e assicurata da una compagnia britannica, aveva 26 anni di vita al momento dell'incidente. Le indagini hanno solo concluso che la nave non sopportò gli sforzi di un temporale più che notevole. Conclusione: tutti assolti. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è sempre più pesante la situazione nelle Filippine. L'ultimo bilancio provvisorio del governo di Manila sul super tifone Haiyan è di 2.275 morti, una cifra destinata però a salire, ma che non dovrebbe raggiungere le allarmanti previsioni dell'ONU, che aveva indicato il rischio di 10.000 vittime. Sono comunque tante, ma almeno non sono 10.000. Torniamo in Italia con RCS, che ha siglato il contratto di vendita al fondo americano Blackstone dell'immobile nel Via Solferino a San Marco a Milano per 120 milioni di euro. Lo annuncia una nota, e però Corriere e Gazzetta resteranno nei prossimi anni in affitto nello stesso immobile. L'inchiesta sulla famiglia Ligresti. Anche la Procura di Milano, dopo quella di Torino, ha chiuso le indagini. 8 anni di occhi chiusi e bocche cucite in cambio di una raccomandazione, ispezioni rinviate in cambio di un'intercessione presso l'allora premier. Ora il controllore, l'ex presidente dell'ISVAP, e il controllato, l'ex patron di Fondiaria, sono entrambi accusati di corruzione. Andare all'antitrust una volta terminato l'incarico all'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private. Era questo, secondo la Procura di Milano, l'obiettivo che Giancarlo Giannini sperava di raggiungere attraverso la mediazione di Salvatore Ligresti con Silvio Berlusconi. E per questo solo dopo 8 anni, scrive il PM Luigi Orsi, mandò in Fondiaria un'ispezione tardiva e non centrata sulle principali questioni. Ha preso i soldi e allora è forse reato, rispondeva Giannini a chi notava quei 28 milioni anomali arrivati a Don Salvatore da Fondiaria. Contava su quella raccomandazione Giannini, una raccomandazione che Salvatore Ligresti effettivamente affidò all'allora premier Berlusconi in un incontro ad Arcore insieme alla figlia Ionella. Fu in quell'occasione, a quanto lui stesso racconta ai PM, che rappresentò pure il desiderio di Anna Maria Cancellieri, attuale guardasigilli, di non essere trasferita quando era commissario prefettizio a Bologna. La missione è contenuta in uno dei verbali in cui Ligresti ha ricostruito tutta la sua storia di siciliano a Milano, fin dall'incontro in aereo con Enrico Cuccia. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E parliamo adesso di mafia. Il procuratore Messineo lancia l'allarme. Le minacce a Di Matteo, al magistrato Di Matteo, sono una chiamata alle armi di Riina. Sentiamo l'analisi di Daniele Biacchessi. Il 41 bis, il carcere duro per i mafiosi, non riesce a frenare l'impeto del capo dei capi. Totò Riina, l'uomo della vecchia mafia, protagonista della stagione delle stragi di Capaci, Via D'Amelio e di quelle del 93, condannato ad un fine pena mai, minaccia oggi il sostituto procuratore di Palermo Nino Di Matteo e sceglie, come per tradizione mafiosa, un'aula di un tribunale dove è in corso il processo sui rapporti tra Stato e criminalità. Quelli lì devono morire, fosse l'ultima cosa che faccio, ha gridato Riina ad un compagno di cella. Così sono scattate le misure di sicurezza per Di Matteo e per tutti i magistrati antimafia di Palermo. Ma le minacce a Di Matteo non sono isolate. Dopo la linea del silenzio tornano ad alzare le voci dei criminali. Il collega Lirio Abbate dell'Espresso nel mirino della malavita romana vicino al clan dei Casalesi e il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri confida che pure Papa Francesco potrebbe entrare nell'obiettivo dell'andrangheta. Ma di cosa hanno paura le mafie? Dell'affermarsi in più parti del paese di una nuova stagione dell'antimafia, forse più consapevole e disincantata, composta da funzionari dello Stato fedeli, di giornalisti attenti, onesti imprenditori che rifiutano di pagare il pizzo, di un processo, come quello in corso a Palermo, che sta svelando in tutta la sua drammaticità il filo sottile che lega uomini infedeli dello Stato con i criminali. L'urlo di Riina, dunque, si scaglia proprio contro l'affermazione della cultura della legalità. La cronaca con un'agenzia che è arrivata poco fa. Adam Kabobo, il ghanese, vi ricordate che lo scorso 11 maggio ha ucciso a Milano a colpi di piccone 3 passanti, ha messo le mani al collo del suo compagno di cella tentando di strangolarlo. È successo alcuni giorni fa nel carcere milanese di San Vittore. Si ha notizia ora, da quanto si è saputo, Kabobo, così come per gli altri omicidi, ha detto di aver sentito delle voci, anche di Dio, che gli chiedevano di uccidere il detenuto. L'intervento della polizia penitenziaria però è stato immediato, il detenuto non ha riportato ferite gravi. Ecco, si potrebbe dire che sentendo lui queste voci da una parte lo si può curare, dall'altra è meglio non lasciarlo in compagnia. E chiudo con una notizia che viene dagli Stati Uniti, dicono sì anche le Hawaii, e così con il sì definitivo del Senato locale le Hawaii sono diventate il 15° Stato americano ad aver legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, voto che viene accolto con grande soddisfazione dal Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha fatto della lotta a favore dei diritti degli omosessuali un punto centrale del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Sono sempre stato orgoglioso di essere nato nelle Hawaii, commenta il Presidente, e il voto di oggi mi rende ancora più orgoglioso. Bene, mentre ci aggiorniamo chi viaggia, vi ricordo che potete fare i vostri commenti sulle notizie che vengono trattate man mano, e in particolare, secondo voi, ora che c'è questo incontro di grande importanza tra Berlusconi, Alfano e probabilmente anche alcuni ministri del governo del PDL, che cosa, secondo voi, che cosa ne scaturirà da questi incontri, da questi momenti febbrili prima del Consiglio Nazionale di sabato? Che ne sarà, insomma, del PDL? Lo potete scrivere sia a effettonotte-Roberta Giordano sulla pagina Facebook, oppure ai messaggi al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, sempre con voi. Prima di cominciare a parlare con il primo ospite, vi ricordo i fatti principali di oggi. Legge di stabilità che preoccupa anche l'Unione Europea, o meglio, sono gli emendamenti, tanti emendamenti, oltre 3.000, così dice il ministro dell'Economia Saccomanni, e intanto l'Italia e la Germania sono nel mirino di Bruxelles. Berlusconi, la condanna definitiva per frode fiscale, l'avvocato Coppi precisa, la richiesta di grazia è tramontata e stasera l'ex presidente del Consiglio torna a vedere Alfano. All'Italia si va verso una proroga del termine per l'aumento di capitale. Spagna, nessun colpevole per la catastrofe ambientale della petroliera Prestige nel 2002, tutti assolti. E poi il presidente del Consiglio Letta, oggi è la sua prima visita al CONI, ha annunciato una legge sugli stadi e la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi 2024 e ha aggiunto tolleranza zero su Salernitana Nocerina. Buonasera Alessandro Cattaneo. Buonasera, buonasera. Alessandro Cattaneo è noto, notissimo, sindaco di Pavia, esponente del PDL, vicepresidente dell'ANCI. E le chiedo subito, Cattaneo, lei per caso sa che cosa si stanno dicendo Berlusconi e Alfano lì in questa riunione? No, guardi, che io non lo so, come credo non lo sappia praticamente nessuno. Chissà, magari non sanno neanche loro prima di entrare cosa si dovevano dire, nel senso che io spero che sia un incontro molto franco, un incontro dove non ci sono dei cliché da seguire, ma si badi alla sostanza delle cose, anche all'istinto che due persone autorevoli e di istituto politico, io spero, possano davvero mettere in campo per trovare una soluzione a questo impasse che PDL e Forza Italia vivono. Io che speravo di avere un'anteprima mondiale da parte sua, Cattaneo. No, guardi, se no devo deludere. Ma lei, Cattaneo, io già intuisco da quello che dice, in che collocazione, in che categoria è, però lei si ritiene lealista, governativo, mediatore, falco, falchetto, colombina, e che cosa esattamente? Mi sono un po' perso anch'io in queste distinzioni ornitologiche varie. Guardi, io sono una persona che sta cercando di usare il buon senso, che secondo me in politica è quel valore ultimamente preziosissimo. Io sono per ritrovare la normalità delle cose, e all'interno della normalità delle cose ci sta il fatto che è assurdo dividere un partito di centrodestra, il più grande partito di centrodestra, in molti anni è il più grande partito d'Italia, perché abbiamo finalmente ottenuto come valore del nostro paese il bipolarismo, la chiarezza degli schieramenti. Tornare verso una parcellizzazione sicuramente non giova, ma sono certo che anche Angelino Alfano e il presidente Berlusconi la pensano uguale. Purtroppo la situazione, questo è lì da vedere, si è andata incancrenendosi troppo e ora sta a loro cercare una via d'uscita. Lei, tra l'altro, poi volevo leggerle dei messaggi abbastanza duri sulla pagina Facebook di Effetto Notte, potete anche mandarli voi ascoltatrici e ascoltatori finché c'è il sindaco di Pavia Cattaneo al 349-238-6666. Lei, insieme a Lara Comi, europarlamentare del PDL, mi pare che abbia individuato una terza via. Dice, faremo un terzo documento che porteremo al Consiglio Nazionale del 16 novembre, cioè appunto di sabato. Cos'è questa terza via? Sì, è vero, noi abbiamo fatto, io e l'europarlamentare Comi, questo terzo documento che vuole essere una proposta di una via alternativa all'impasse che stiamo vivendo. Vuole richiamare tutti all'unità, rivendico ovviamente anche la necessità, questo io lo dico in maniera netta, che poi si vada sui contenuti di un partito che ha bisogno di un profondo rilancio, però ecco, propone tutto questo in maniera costruttiva. E siccome proprio non è una terza mozione così pretestuosa, e se diciamo che vogliamo l'unità, evidentemente non è che possiamo andare in giro a chiedere firme, perché questo frammenterebbe ulteriormente. Il documento è nelle mani del presidente Berlusconi, è informato anche Angelino Alfano, sta a loro, come dire, se vogliono attivare questa proposta che viene dalla base, che viene da tante persone che non si riconoscono in questo scontro, le garantiscono che sono tante, tantissimi. Io oggi ho parlato con molti miei colleghi sindaci e pochi avvertono questo scontro all'interno come proprio, non esiste in molti ambiti delle nostre strutture, dei nostri territori, questo scontro. E allora usciamo da questa impasse, in maniera costruttiva abbiamo proposto una carta che, se si ritiene di utilizzare, è pronta e vuole proprio significare questo: unità e poi rilancio dell'iniziativa politica. E unità e rilancio dell'iniziativa, siete un po' in mezzo, perché ci sono questi, come sa Cattaneo, i due documenti, no? Quelli delle liste dei governativi, però ci sono, che presenteranno al Consiglio nazionale, però ci sono molti dentro il PDL che hanno sottoscritto tutti e due i documenti, infatti i conti non tornano. Secondo lei cos'è, per dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, perché erano indecisi, per cosa? Ma guardi, è proprio quello che dicevo prima, sui territori, le persone che ogni giorno ci mettono la faccia per il centrodestra, che hanno un ruolo, io conosco e in qualche modo sono un rappresentante che sintetizza l'area degli amministratori locali del centrodestra, veramente faticano tanto a comprendere e ancora di più a riconoscersi in uno scontro. Ma lei pensi a molti di noi che tra poco andranno al voto in maggio 5.000 comuni, appare veramente impossibile, insensato andare magari divisi da un assessore con cui si sta lavorando molto bene, con il collega di consiglio comunale, in virtù di una divisione che molte volte appare non tanto sui valori di fondo, per quello sarebbe anche lecito prendere strade diverse, ma in questo caso davvero appare uno scontro che probabilmente, un po' per questioni personali, un po' per incomprensione, si è andato acuendo. Certo, ci sono, questo non nascondo, due o tre nodi fondamentali. Uno è cosa succede con la decadenza di Berlusconi, certo. E due, se, ma soprattutto come stare dentro al governo. Questi sono tematiche politiche e, come mia consuetudine, non fuggo dalle risposte. Bravo, si faccia una domanda e si dia una risposta. Ma invece ci vado io track in pieno. Quindi, in caso di decadenza, lei, Alessandro Cattaneo, che cosa ha in mente? Quale sarebbe la strada giusta? In caso di decadenza, intanto purtroppo riscontriamo un atteggiamento davvero irresponsabile anche da un lato del Partito Democratico e dei nostri alleati di governo, che non possono condividere un percorso di governo con un alleato rispetto al quale poi marciano a grandi passi verso la decadenza del proprio leader. È evidente che ogni occasione di approfondimento, di prendersi del tempo anche con personaggi autorevoli, pensiamo a Violante, che avevano detto di aspettare, si è andati avanti a strombattute. Questo non va bene, non è proprio accettabile. La domanda ulteriore che giustamente però si fa è: abbandonando il governo, quale valore aggiunto portiamo alla vicenda Berlusconi? Cioè, nel momento in cui noi abbandoniamo il governo, la vicenda Berlusconi fa un passo in avanti, ne ha un beneficio, possiamo difendere meglio il nostro presidente? Ecco, se c'è questa sensazione che si può fare qualcosa di più, allora è doveroso abbandonare il governo. Se invece al contrario magari si disorienta anche l'elettorato, questo è un ulteriore elemento di riflessione che noi dobbiamo porci e dobbiamo fare. Non è semplice. Lei mi pare che opti per l'ultimo elemento di riflessione, Cattaneo, cioè che probabilmente non giova alla vicenda Berlusconi. Io sono tendenzialmente additato dai filo governativi. Faccio il sindaco, quindi forse una costruzione mentale per cui in qualche modo devo fare delle cose, sento la responsabilità di decidere, di non fare quell'ostruzionismo, quella contrapposizione che oggi è facilissima in Italia. Oggi in Italia per demolire qualcosa ci vuole un attimo, quindi io senz'altro sono una persona tra virgolette di governo, però visto anche da vicino, quando ho avuto occasione con il mio ruolo di vicepresidente dei comuni italiani, questo governo è molto logoro ed è logoro per tanti motivi, non solo per i problemi del PDL ma anche per le mille sfaccettature del Partito Democratico. Quindi forse sarebbe meglio andare al voto, Tanio? Io credo che allora o questo governo fa due o tre cose forti, coraggiose, vere, e dà una svolta, e allora i partiti, ma soprattutto i cittadini, comprendono questa situazione anomala di larghe intese, oppure io credo che sia più opportuno in qualche modo anche prendere altre strade, e in mezzo ci sta la vicenda Berlusconi che evidentemente acuisce tutto questo. Sicuramente un periodo molto complicato, il presidente Berlusconi si è dimostrato davvero uomo di Stato negli ultimi tempi, soprattutto insomma, non ha voluto entrare al governo lui personalmente, ha fatto tanti passi indietro, l'ha fatto dal suo partito, l'ha fatto poi dal Presidente del Consiglio un anno e mezzo fa, argomentazioni che poi ci sono rivelate piuttosto fragili, e quindi io credo che anche questa volta saprà, e insieme ad Angelino sapranno fare le scelte più giuste, con una responsabilità innanzitutto verso il Paese. Ha letto quindi l'intervista, immagino, di Alfano oggi al Corriere, in cui ha detto: io sono per l'unità, la crisi non aiuterebbe il Cavaliere, ha subito una somma ingiustizia ma è un uomo di Stato, noi vogliamo partecipare a questa festa di Forza Italia, però Fitto, che invece è fedelissimo di Berlusconi, ha detto è lui che vuol fare la festa a Berlusconi. Chi vuol fare la festa? Che festa facciamo? Quindi, ma fedelista, adesso non c'è la gara chi è più fedele di Berlusconi. Angelino insomma lo è, e non si può neanche dire ad Angelino che quando non dice la sua non ha il quid, se dice la sua è un traditore, insomma c'è anche una giusta via di mezzo. La vedo alfaniano, senta, ma quanto opportunismo... Io sono di buon senso. D'altro canto devo anche dire che i ministri non possono mettere al centro la permanenza del governo in maniera cieca. Al governo ci si sta se si riescono a fare delle cose, e queste cose francamente non sono più rimandabili, e come parafrasando quello che diceva Moretti in quel famoso film ad Alema, facciamo qualcosa di centrodestra noi a questo governo. Quale potrebbe essere una cosa da fare di centrodestra? Tagliare la spesa pubblica, guardi, io sono un liberale convinto, 800 miliardi di spesa pubblica sono una follia, sono ingiustificabile. Ecco, questa è qualcosa di centrodestra, e non dobbiamo avere esitazioni nel farlo. Ci sono delle voci di spesa enormi che devono essere aggredite. Certo, poi quando uno aggredisce la spesa pubblica vuol dire che aggredisce dei centri in qualche modo di potere, oltre che di spreco, aggredisce delle lobby che poi reagiscono, quindi bisogna andare incontro a un'ondata di ritorno sulla spesa, sull'opinione pubblica, e bisogna avere che cosa? La forza della politica, perché se la politica è debole si fanno mezzi passettini in avanti. Se la politica è forte, allora si può percorrere anche un cammino deciso verso delle riforme di cui questo paese ne ha tanto bisogno, dicono tutti, ma non si riescono mai a fare. Senta, Cattaneo, ci sono messaggi abbastanza duri, adesso non si firma questo ascoltatore o ascoltatrice, dice: uomo di Stato il Caimano. Allora mi rimanda a Grillo, che oggi ha detto in un post sul suo blog, ha detto: la memoria degli italiani si riavvolge dopo ogni fatto che sconvolgerebbe altre democrazie. Gli italiani non hanno memoria, è una situazione patologica di rimozione che non ha spiegazioni razionali. Dice: a proposito di Berlusconi, in sostanza è un delinquente acclarato che non può in alcun modo sedere in Parlamento, ma poiché si è persa la memoria del reato, Berlusconi è diventato il grande perseguitato. Beh, questo fa parte uno dei tanti messaggi di invettive che molte volte si nascondono peraltro dietro l'anonimato. E questo è anche un tema. No, di questo è Grillo, però, questo qui è Grillo. Sì, vabbè, Grillo sì, l'ultimo, però prima leggeva o comunque accennava a tanti che anche in maniera anonima aggrediscono sulla rete. Questo secondo me è un malcostume davvero deprecabile. Dal punto di vista di Beppe Grillo, sappiamo come la pensa. C'è un'anomalia italiana? Vero, verissimo, c'è. Però se c'è questa anomalia italiana, è su più fronti, non è solo sul fronte univoco della persona Silvio Berlusconi. C'è un'anomalia nella giustizia, c'è un'anomalia, e guardate, lo dico veramente con la volontà di aprire una fase diversa, nuova, responsabile, però uno dice in altri paesi non sarebbe mai successo. È anche vero che in altri paesi ci sono delle fondamenta diverse nel rapporto Cattaneo, leggo velocemente altri due messaggi da pagina Facebook e poi voglio fare le due domande, siamo un po' in velocità adesso. Samuel dice: a mio parere Alfano è il pupazzo di un movimento politico che vorrebbe ereditare un partito silviocentrico, non credo che ci riuscirà poiché non ha né il carisma né le capacità di Berlusconi. E poi Massimo invece scrive che Berlusconi si piegherà alle esigenze chinerà il capo ad Alfano, ai governisti, nella speranza che accada qualche miracolo prima che lo caccino a pedate nel sedere dal Parlamento. Mi dica una cosa però, Cattaneo, visto che lei è sindaco di Pavia, preferirà far pagare ai suoi concittadini la trise, la TUC o qualche altro termine creativo per la casa, sinteticamente? Insomma, arriviamo alle cose concrete, ecco. Che poi tutti noi è interesse sapere. Se io dovessi scegliere domani che tipo di tassazione locale far pagare, io sogno il giorno in cui da cittadino innanzitutto pagherò una sola tassa, la chiameremo come vogliamo, il bollettino in cui so quanti soldi sto dando e a chi li sto dando. E posso in quella maniera molto trasparente giudicare il ritorno che quell'amministrazione locale mi rende in termini di servizio. Magari. Senta, le dico l'ultima cosa. Quagliarello, ministro Quagliarello, ha detto per stare insieme, a proposito dei rischi spaccatura del PDL, per stare insieme serve la stessa idea del paese. Lei, Alessandro Cattaneo, che idea ha del paese? Ma io ho un'idea di un paese che ha delle potenzialità enormi, ma che ha anche bisogno di grandi riforme. E da uomo di centrodestra sono convinto che siano soprattutto riforme di stampo liberale che riescano a liberare quelle energie di cui questo paese è ricchissimo, ma che ahimè spesso si avvita su se stesso, come anche in questi giorni in qualche modo ravvisiamo. Il centrodestra, tornando anche a un accenno di un radioascoltatore che scriveva, il paese sicuramente è allo stremo, però mi spiace deludere quelli che immaginano che un'area di centrodestra ci sia solo se c'è Silvio Berlusconi. L'alternativa alla sinistra esiste ed è maggioranza in questo paese. Silvio Berlusconi è un grande leader sostanzialmente imbattuto nelle urne, il centrodestra ha il dovere. Beh, però di due volte l'aveva battuto, diciamo, magari anche di poco. Alessandro Cattaneo, io però la ringrazio, spero di ritrovarla presto, intanto le auguro buon lavoro, grazie. Buona serata. Grazie. Grazie a voi tutti. Grazie sindaco. Buona serata. Cioè, dobbiamo fermarci da parecchio tempo perché c'è la pubblicità, poi ritorniamo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco ci darà una notizia in anteprima un collega del Sole 24 Ore, ma prima vi dico quali sono i fatti principali sino a questo momento. La legge di stabilità, il ministro Saccomanni dice che l'Unione Europea è preoccupata dai tanti emendamenti. Intanto l'Italia e la Germania sono nel mirino di Bruxelles. E poi invece per la politica, Berlusconi la condanna definitiva per frode fiscale, l'avvocato Coppi fa sapere che la richiesta di grazia è tramontata e stasera c'è l'incontro decisivo tra Berlusconi e Alfano. Per quanto riguarda l'Italia, sapremo tra poco che cosa succede nel Consiglio di amministrazione. Spagna, nessun colpevole per la catastrofe ambientale della petroliera Prestige nel 2002, sono stati tutti assolti. Il Presidente del Consiglio Letta oggi alla sua prima visita al CONI ha annunciato una legge sugli stadi, la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi 2024. Saluto Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Gianni, volevo lasciar dire a te che cosa, sì. L'ultima novità su Alitalia? Guarda, il consiglio di amministrazione è ancora in corso, una riunione notturna molto complicata, però proprio pochi istanti fa uno dei componenti del vertice, uno dei sindaci, ha detto che il consiglio di amministrazione ha approvato il piano industriale. L'Alitalia non ha detto, pare che non dice quanti sono gli esuberi, ma il piano parla di risparmi per 200 milioni di euro già nella fase invernale, non verrà rinnovato il contratto a termine a 2000 lavoratori stagionali, queste sono indiscrezioni ma diciamo da fonti buone, poi potrebbero esserci anche degli esuberi in più, su questo c'è un braccio di ferro ancora con il governo e i sindacati. Il punto però ancora interrogativo è quello della partecipazione o no dei francesi, infatti, a France KLM all'aumento di capitale. Per questo vediamo nella notte cosa succede, ma il consiglio sembra orientato a decidere un prolungamento di una decina di giorni del termine che scadrebbe se no domani, giovedì, per sottoscrivere l'aumento di capitale. Questo sarebbe un modo di tenere aperta la porta ancora a una trattativa ancora difficile ma non impossibile. Senti Gianni, invece sulle Poste italiane quali sono le novità? Per le Poste non è ancora questo il momento del loro intervento, perché fin dall'inizio è previsto che il loro intervento avverrebbe dopo l'esaurimento della tornata riservata al diritto di opzione dei soci, e qui siamo ancora in questa fase, appunto, fino a domani, fase che verrebbe prolungata, potrebbe essere prolungata di una decina di giorni. Le Poste hanno in calendario un'assemblea degli azionisti che dovrebbe svolgersi tra una settimana per essere autorizzata dal Ministro dell'Economia a intervenire. Naturalmente l'interrogativo è: se Air France non dovesse veramente partecipare all'aumento, deve mettere 75 milioni, il governo, che ha detto le Poste intervengono, dà l'autorizzazione lo stesso o gli vengono dei dubbi? In astratto il governo ha detto che le Poste partecipano comunque, però è chiaro che se invece i francesi dovessero dire no, non ci stiamo, ci sarebbe un bel punto interrogativo sul futuro dell'Alitalia, quindi anche su questa mossa delle Poste. Gianni D'Argoni, non so se tu ti senti da fine analista economico di fare delle previsioni. Le previsioni è sempre difficile farle. Quella che credo si possa fare è che questa partita richiederà ancora del tempo per essere definita, più tempo di quello che sembravano aver definito quando il 10 ottobre il governo ha detto il piano di salvataggio è stato definito, interverranno le Poste. In realtà è cominciato un nuovo piccolo calvario, certo è partito un aumento di capitale, i soci hanno messo una parte, 130 milioni, senza i quali, i soci e le banche, senza i quali l'Alitalia se no avrebbe già gli aerei fermi perché non potrebbe pagare il carburante. Quindi penso, siccome che da qui ci vorranno ancora diverse settimane in realtà per poter mettere un punto, almeno togliere un po' molte delle incertezze che ci sono ancora. Grazie Gianni D'Argoni, allora ci aggiorneremo. Ciao Gianni. E c'è la viabilità, stanno arrivando tanti vostri messaggi al 349-238-6666, alcuni relativi al sindaco Cattaneo, però non c'è più. E poi Marco dice una cosa che può essere sempre valida, dice: che cosa aspetta il governo a fare l'unica cosa sensata, cioè a dimezzare i faraonici stipendi dei dirigenti pubblici? Effetto notte, le notizie in 60 minuti. I vostri messaggi sulle varie notizie, sui vari fatti, possono continuare ad arrivare alla pagina Facebook Effetto notte - Roberta Giordano. Io intanto vi ricordo i fatti principali di oggi. Incontro decisivo questa sera tra Berlusconi e Alfano. Intanto il ministro Coppi dice: la richiesta di grazia per il Cavaliere è tramontata. Il ministro Saccomanni annuncia che l'Unione Europea è preoccupata per i tanti emendamenti alla legge di stabilità, intanto l'Italia e la Germania e altri paesi sono nel mirino di Bruxelles. Spagna, nessun colpevole per la catastrofe ambientale della petroliera Prestige nel 2002, visto che sono stati tutti assolti. E il presidente del Consiglio Letta, oggi alla sua prima visita al CONI, ha annunciato una legge sugli stadi e la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi 2024. E proprio su questo è venuto a trovarmi Dario Ricci. Eccomi Roberta, cioè, almeno grazie dell'invito. A meno che tu non voglia parlare di scornacchiati, non lo so. Scornacchiati è un tema stuzzicante perché Aurelio De Laurentiis con questi fuori onda. Presidente del Napoli. Sì. L'altra volta ha dato rincoglionito, si può dire a quest'ora, è ancora molto soft rispetto ad altre cose. Quelle ce le teniamo per la seconda ora. aveva dato del poco furbo al capitano Cannavaro, che aveva portato Higuain quasi a schiantarsi su uno scoglio affittando una barca in nero, insomma non è il massimo della trasparenza. Si divertono. Sì, ha dato dello scornacchiato a Moratti, poi è partita, ha detto, perché in poche parole ha detto: Mazzarri si è andato a vendere a quello scornacchiato, no? Poi le smentite, la frase estrapolata dal contesto. Come al solito, insomma, Aurelio De Laurentiis è il contesto. E invece tu ci vuoi parlare di Letta e di questa visita al CONI oggi. Sì, visita al CONI importante perché, come avevamo preannunciato anche nel nostro GR24 di ieri mattina, perché era un momento importante quello di stamattina, perché venivamo dal no di Monti alla candidatura di Roma 2020 alle dimissioni della ministra per lo sport Josefa Idem, grande campionessa e quindi simbolo dello sport, eccetera, c'era un tessuto da connettivo da ricostituire. Questa visita di Letta lo sta facendo, ha questo obiettivo, anche perché ha preannunciato un emendamento alla legge di stabilità, no? Che possa in qualche modo aprire la strada a questa legge sugli impianti, perché sottolineo questo termine, perché lo ha fatto anche il presidente del CONI Malagò, evidenziando il fatto che non tanto di stadi per il grande calcio, si vuol solo parlare, ma per l'impiantistica di base. È una filosofia che Malagò ha da sempre, lui che del calcio non è poi così grande amante, seppur gran tifoso, e quindi questo aspetto è importante, così come altrettanto importante è il via libera sostanziale che Letta, l'appoggio che ha dato da parte dell'esecutivo per la candidatura italiana. È bene sottolineare italiana alle Olimpiadi, forse ce l'abbiamo, sì. La sua voce di Letta alle Olimpiadi, sulle Olimpiadi, sì, siamo lì, sì. Le Olimpiadi da portare in Italia, che io considero essere un obiettivo alla nostra portata, è comunque una partita che noi dobbiamo giocare. Hai capito? Eh sì, dobbiamo giocarla. Molto probabilmente al 99,99% sarà Roma la candidata italiana, però proprio questa sera si è svolto, diciamo nel tardo pomeriggio ed è finito da poco, questo vertice sempre a Roma tra i due sindaci di Milano e Roma, i presidenti della regione Lombardia e della regione Lazio. Perché? Perché di fatto Milano, per tirarsi fuori da questo duello, vuole in qualche modo portare a casa una contropartita. Anche qui sarebbero impianti importanti, significativi, nell'area proprio dove poi si svolgerà l'Expo 2015. Quindi entro quella data, allora, evidentemente. Sì, insomma, quantomeno avere la garanzia che poi parta la realizzazione di questa città dello sport milanese, che poi potrebbe diventare anche polo per ospitare a sua volta importanti manifestazioni internazionali. Insomma, c'è da mettere a punto questo reciproco confine per poter arrivare ad una candidatura unitaria, in modo tale che non ci sia il cosiddetto fuoco amico, spesso leghista, ma diciamo di varia provenienza, che poi vada ad indebolire la candidatura italiana. Tutto questo, Roberta, però non basterà, nel senso, non pensiamo che poi basti questo per arrivare a ottenere le Olimpiadi, perché nel 2024 c'è Parigi che, se non sbaglio, celebra il centenario dei suoi giochi, gli americani che sono un bel po' che non li ottengono, quindi insomma... Però noi abbiamo tempo per aggiornarci in questo, Dario Ricci. Sì, abbiamo, guarda, verrà scelta la città nel 2024-7 nel 2017. Io fino al 2017 sono a disposizione. Molto bene, questo mi conforta. Grazie, Dario. Speriamo Ricci. Anche dopo, insomma. Anche dopo, speriamo. Ciao, Dario. Ciao, grazie a voi. E adesso invece parlerei con il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli. Ciao Alberto. Ciao a tutti voi, buonasera a tutti. Di questa indagine, penso tu voglia parlare, dell'Unione Europea sugli sbilanci di 16 paesi, e di questo, che bello questo termine, che non era stato diffusissimo fino agli sbilanci. Esatto, sì. La cosa più rilevante è che per la prima volta Bruxelles ha aperto un'inchiesta sulla Germania, quindi infatti, l'Europa che noi abbiamo sempre pensato a trazione tedesca, e ancora effettivamente è a trazione tedesca, però batte un colpo. Però per motivi opposti ai nostri, possiamo dire. Esattamente, infatti viene messa un po' nel mirino da Bruxelles perché ha un eccesso di attivo degli scambi commerciali sostanzialmente che superano il limite di vigilanza del 6%, cioè esporta troppo rispetto a quello che esporta, troppo e importa poco. E quindi la Germania deve ribilanciare un po' il suo surplus commerciale, per questo l'Europa l'ha un po' bacchettata e Barroso ha detto che aprono un'inchiesta. Invece poi, per l'Italia è sempre il problema del debito pubblico, poi aumenta la povertà, l'esclusione sociale, no? Su questo bacchettava. Esatto, l'Italia è nel mirino come da tanto tempo, ahimè, per l'eccesso di debito pubblico. Sottolineano il fatto che si sta allargando la fascia dell'area di povertà, di chi non ha redditi sufficienti che rientrino appunto negli standard internazionali di definizione della povertà, e poi una eccessiva, troppo timida azione per lanciare la ripresa economica sostanzialmente, e quindi anche la nuova occupazione. Senti Alberto, è vero che avete un scoop pazzesco al Sole 24 Ore? Domani sì, chi vorrà seguirci potrà vedere una bellissima intervista ad Alierta, che è il presidente di Telefonica, è un manager che non parla mai e quindi per la prima volta ha deciso di parlare del grande riassetto delle non avrete mica intercettato per farlo parlare, no? La brava collega Antonella Olivieri è andata nel quartier generale di Alierta e quindi ha riportato a casa una bellissima intervista che invito tutti a leggere domani. E quindi neanche proprio un piccolo anticipazione, una frase, anche mollata lì, no? Una frase, lui specifica quale sarà il suo obiettivo di quota da raggiungere in Telecom. Ah, Non dico altro. Quindi la stiamo, cioè sta andando agli spagnoli Telecom. Vabbè, non può dire altro Alberto Rioli. Senti, invece un altro argomento di domani del Sole 24 Ore che potrebbe essere di... Guarda, domani sul Sole 24 Ore c'è un grossissimo sforzo di divulgazione sul tema della casa, che è sempre molto popolare e interessa moltissimo i nostri lettori. Domani ci sarà Casa 24 Plus che raddoppia praticamente, perché avrà anche una guida specifica sulle modalità con cui comprare casa. Casa 24 Plus si occuperà soprattutto delle nuove forme di acquisto alternativo cosiddette, che la crisi costringe un po' a utilizzare, perché possono essere forme come ad esempio l'affitto con riscatto o cose di questo genere. Spiegheremo tutte le varie fattispecie che servono a spendere un po' meno e a diluire un pochettino di più gli oneri finanziari per l'acquisto di una casa, che sono, che è sempre una cosa molto importante e molto onerosa. Come cambiano i tempi, e quindi insomma cerca di ingegnarsi e di adeguarsi al momento. Alberto Rioli, io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro, visto che grazie chiuderai poi le pagine del Sole. Ciao, grazie Alberto. Anche io chiuderei qui, poi lo sapete che però ci sentiamo giusto per un attimo poi per ricordarvi i fatti principali.